60 milioni di euro ce li avete in tasca per comprarvi l'attaccante più forte al mondo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, qui è un massacro, È rimasto lì a godere fino a quando non ha ficcato il pallone nella porta sguarnita, quasi una cosa sessualmente vietata ai minori. Tutti convocati di Carlo Genta. This is a story about Billy Joe and Bobby Sue. Two young lovers with nothing better to do. They sit around the house, get high and watch it too. Tutti sono cedibili se si presentano con una proposta indecente. Per me la proposta indecente sono 100 milioni di euro. I swear they ran into a great big hassle. E via, via pure. Buongiorno a tutti, 800 24 00 24, vostro numero verde, Franco Piantini, autore di questo programma, Filippo Oreggi in regia. Il Real Madrid aveva bisogno di un colpo da spacconi per rispondere al Barcellona, al calcio mondiale, per regalare qualcosa ad Ancelotti, per indicare l'inizio di una nuova era. E allora va a strapagare, secondo me, perché è una cifra che non ha senso, questi 120 milioni, neanche 100, 120 per Gareth Bale, qualcosa di assurdo, secondo me, ma non solo alla luce della crisi, alla luce anche dei normali parametri del mercato del pallone, anche non in tempo di crisi. Saluto e ringrazio il mio amico Andrea Sorrentino, inviato di Repubblica. Ciao Andrea. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Come li vedi questi 120? Altro che cacci i sordi di De Laurentiis. Sono eccessivi, sono sensazionali, sono spropositati, ma evidentemente si dimentica sempre che al Real Madrid sanno fare di conto, e chiaramente hanno considerato il prezzo di Bale assorbibile attraverso il marketing, il merchandising, insomma tutte le attività che servono ad aumentare i ricavi. Il Real Madrid ha sempre fatto questi colpi a sensazione: Cristiano Ronaldo, Zidane, Kakà, Figo nel 2000, lo stesso Beckham fu un investimento che si ripagò quasi subito soltanto con la vendita delle magliette. Ai motivi che hai elencato tu appunto all'inizio sul perché il Real Madrid compra Bale, dobbiamo aggiungere quello del mercato asiatico. Bale è una stella della Premier League, la Premier League è il campionato più visto in Asia, l'Asia è il mercato più importante per i grandi club europei di calcio, e quindi Bale sarà vendibilissimo in Asia, e il ritorno economico che il Real Madrid avrà da questa immagine di Bale andrà a coprire lentamente negli anni la spesa di 120 milioni. Questo è il calcolo che hanno fatto. Chi mi scrive? No, stavo guardando gli sms, ma chi mi scrive? Tutti convocati, faccia il piacere, parla solo lei. Ma come si chiama? Agostino? Ma perché? Se mi chiama, invece di mandarmi un messaggio, parla Agostino. Ma come parlano tutti, ma ci mancherebbe altro. Adesso invece parla, silenzio, parla Andrea Sorrentino, che mi dice di Bale. Ma non lo so, Andrea, Bale è un grande giocatore, un eccellente esterno, corre ai piedi buoni. Sì, tu mi dici sì. Ok, il prezzo è giusto, poi mandiamo anche quello. Facciamo sentire anche la sigla di no, ok, no, prezzo. No, no. Però, allora, se mi dici mercato asiatico, io ti dico, vogliamo fare il colpo ad effetto, andiamo a prendere Wayne Rooney dallo United. Eh sì, ma Wayne Rooney non serve al Real Madrid perché hanno già un centravanti. Sì, vabbè. Ancelotti, cioè, non sempre il Real Madrid compra i giocatori che gli servono, No, infatti. Però questo è un anno particolare, sai Carlo, chiaramente il prezzo di Bale è lievitato ed è arrivato a costare questo giocatore forse il doppio, se non di più del doppio di quello che varrebbe, perché poi è un nazionale gallese, non inglese, non è ancora un fenomeno assoluto del calcio mondiale, si infortuna un po' troppo spesso, quindi sicuramente è un prezzo sovradimensionato. Però questa è un'estate molto particolare del calcio europeo, noi oggi ne abbiamo parlato del prezzo. Sì. Si parla tanto di crisi, ma se andiamo a vedere i nomi che quest'anno hanno cambiato casacca, sono grossi nomi, vuol dire che qui il mercato sta ripartendo. Cioè, noi abbiamo elencato Neymar, Cavani, Falcao, Higuain, Tevez, Gomez, Jovetic, Paulinho, Götze, Isco, Navas, Negredo, Soldado, e probabilmente saranno anche Rooney, lo stesso Luis Suarez, Lewandowski potrebbe ancora farcela andare al Bayern. Insomma, è un'estate alla di faccia, grandi movimenti. Alla faccia della crisi, ma no, ma io dico, il calciomercato sta andando in controtendenza, ma anche quello italiano, Napoli, con Napoli a tirare il gruppo. E insomma, vogliamo dare retta alle tendenze del calciomercato o al centro studi di Confindustria e ai suoi rapporti? Non lo so. Ma perché no? Ma davvero, forse questo è il segnale, è uno dei primi segnali che c'è in atto una piccola ripresa dell'economia mondiale. Chissà, di sicuro il calcio europeo quest'estate ha mosso centinaia e centinaia di milioni di euro, e quindi magari qualcosa sta cambiando. Le hanno mossi tutti i soldi, forse tranne il Milan e l'Inter, che non sono adesso ci arriviamo, ma volesse Dio, no? Volesse Dio che il segnale arriva dal tanto spernacchiato mondo del pallone, e viva, siamo ancora vivi. 800240024 su Twitter, intanto stiamo chiedendo ai nostri followers come definire i 120 milioni per Bay. Io dico soldi senza senso per tutti i motivi che ho elencato. Arriviamo al salvadanaio a forma di porcellino del Milan e dell'Inter. Lo spaccano e cercano gli spiccioli da contare. 1, 2, 3, 4, 5. Ci arrivo? Non lo so. Insomma, Milan e Inter mai così depresse sul mercato. Milan, Andrea, ha offerto 7 milioni per gli Aic. La Fiorentina si è messa a ridere, secondo me, Della Valle ha telefonato a De Laurentiis. Infatti adesso la Fiorentina ha speso da poco 20 milioni per Mario Gomez, e quindi chiaramente si è fatta anche lei due calcoli e vorrebbe incassare un po' di più dagli Aic. Ovviamente il Milan non ha più di 7-8 milioni da investire sugli Aic, né li avrà, secondo me, finché non avrà la certezza della qualificazione in Champions League, quindi dovremo aspettare dopo il 27 agosto. Il Milan ha fatto dei budget di spesa per questa stagione considerando la qualificazione alla Champions League, però se malauguratamente non dovesse arrivare, allora poi tutto sarebbe complicato. Il Milan un po' si sta muovendo, c'è l'operazione Honda che in qualche modo andrà in porto, c'è un'operazione Kučka che dovrebbe andare in porto anche quella dopo la Champions. L'Inter in qualche modo negli ultimi anni ha cercato di aggiustare i passivi di bilancio e in parte c'è riuscita. L'Inter invece è davvero a zero, è davvero al palo, è davvero la maglia nera, e faticherà a risollevarsi o a battere dei colpi in questo mercato, almeno finché non cambieranno le questioni a livello societario. C'è chi dice che il rallentamento nella trattativa con Toir voluto da Moratti in realtà non sta facendo il bene dell'Inter, perché ritarda in ogni caso una certa operazione di rilancio che poteva partire già dalla fine di luglio e che invece dovrà attendere probabilmente la fine di agosto. Quindi sai, è un'Inter pesantemente indebitata che non può muoversi sul mercato e deve aspettare il nuovo proprietario. Questa è l'unica cosa. Questa è l'unica cosa. E intanto io aspetto i nostri ascoltatori 800240024 per il mercato del Real, quello un po' diverso di Milan e Inter, quello della Fiorentina, che alla fine 25 per Jovetic, e lo dico en passant, non sono neanche tantissimi. Secondo me si poteva beccare di più. Ma comunque lasciamo stare. Soldi stavolta sporchi, Andrea Sorrentino, è notizia di oggi. Mauri, per il quale Palazzi, procuratore federale, aveva chiesto l'ergastolo sportivo, 4 anni e mezzo, se la cava con un buffetto, 6 mesi a capitano della Lazio, prosciolti Milanetto e il Genoa. Insomma, questa vicenda del calcio scommesse, di cui abbiamo parlato anche più volte pubblicamente insieme, no? 2 anni fa sembrava una mongolfiera nel cielo d'estate, adesso un palloncino da baraccone. Il problema è che le inchieste hanno trovato, come sempre quando si indaga sul calcio, un muro di granito di omertà. Nessuno ha mai confessato e nessuno secondo me mai confesserà, se non dopo aver smesso di giocare da 40 anni, che in quella tal partita c'è stato quel tal problemino. È difficilissimo sfondare questo muro, e anche per questo ero sicuro che questa inchiesta non avrebbe portato a grandissime condanne, perché il mondo del calcio è un'entità molto autoprotettiva, diciamo così. Certo, ma l'abbiamo detto 2 anni fa in tempi non sospetti, quando invece sembrava sul punto di rovesciarsi una colata di... aspetta che non mi viene la parola. Sul calcio sembrava esplodere tutto 2 anni fa in tempi non sospetti, abbiamo detto ma aspettiamo un attimo, anche perché in uno stato di diritto ci vogliono le prove in qualunque procedimento, no? esatto, e se non ci sono le prove e se non tutti c'è a casa, nessuno che commetta buffetto. Qualcosa eh sì, per forza, la legge è questa, la legge è uguale per tutti. Io personalmente continuo a vedere ogni settimana di campionato in Serie A e magari anche in altri campionati partite che non sono affatto chiare e che non sono affatto comprensibili. Io continuo a non credere a molte cose di quello che vedo nei campi della Serie A, continuo a dirlo, spesso l'ho scritto, poi non succede nulla, però ci sono tante, troppe partite che non mi convincono, soprattutto nella seconda metà della stagione. Ed è un problema enorme, enorme, che prima o poi verrà alla luce in tutta la sua enormità se qualcuno parlasse, ma che non riguarda soltanto il campionato italiano, perché da quando dilaga il fenomeno delle scommesse su internet e in tutti i modi in cui si può scommettere, il calcio ha perso buona parte della sua credibilità. Però è difficile appunto beccare la gente con le mani nel sacco, perché nessuno parla con le mani nella marmellata. Ma no, ma aspettiamo che maturino i tempi per la prescrizione, poi vedrà che qualcosa salta fuori, no? Accade quando sarà prescritto, e in questo caso la prescrizione esiste, non è omicidio sportivo ma non un omicidio fisico, e quindi la prescrizione esiste. Quando tutto sarà prescritto, allora vedrai qualcuno che qualcuno salterà fuori e scriverà un bel libro, Andrea? Anche, come no, anche. Come no, tutta la verità su, certo. Tanto al riparo vi racconto la mia. Calcio sporco, calcio malato, calcio infame, non lo so, poi il titolo abbiamo tempo, il tempo della prescrizione per inventarlo, non ti preoccupare, non ti preoccupare, abbiamo tempo. 800240024, dove siete d'estate? Ditemelo, sotto l'ombrellone a prendere il sole, a leggere i quotidiani sportivi. Oggi è ricomparso anche Ernesto Pellegrini sulla Gazzetta. A proposito, stiamo parlando di soldi e per chiudere con Andrea Sorrentino, i soldi di Toir. Rispunta appunto Ernesto Pellegrini, il presidente che portò Rummenigge a Milano, ma che poi portò altri tedeschi che vinsero lo scudetto contro Pattoni, e adesso dice: Moratti, fermo, non vendere, qui ci sono industriali pronti a darti una mano, me compreso. Sì, sarebbe stato opportuno che Pellegrini avesse detto queste bellissime parole un anno fa, adesso credo sia un po' tardi. Tra l'altro non l'ha scritto anche Pellegrini. Tra l'altro, nella stessa intervista godibilissima di Alberto Cerruti sulla Gazzetta, lo stesso Pellegrini dice: ho incontrato Moratti la scorsa settimana, ma queste cose non gliele ho dette, le dico a voi. Insomma, bravo. Gliele poteva dire sabato scorso, quando hanno fatto il compleanno a Portofino. In realtà, ragazzi, l'Inter sta per essere ceduta a Toir. Io spero, per il bene dell'Inter, che non ci siano troppi conflitti di attribuzioni e di poteri, perché una lotta tra i Toir e i Moratti per la presidenza dell'Inter e per prendere decisioni sarebbe devastante per il club. Quindi, come ha detto Toir giorni fa, è opportuno che ci sia un solo proprietario e non due, ecco. Sì, ma noi ci divertiremo come i matti, tu lo sai, vero? L'ho capito. Dai, adesso non facciamo i buonisti, vero? Noi sarebbe... divertiremo come i pazzi. Per chi segue l'Inter sarebbe un ulteriore surplus di lavoro infernale, perché tanto l'Inter ce n'è da sempre, però tu ti divertiresti un po' più di me, mettiamola così. Io sì, di sicuro, poi ti telefono e tu mi racconti le cose. Esatto. Tu lavori e io raccolgo, si fa così. Va benissimo. Andrea, ecco, grazie. A voi, a presto. Buona estate, Andrea Sorrentino di Repubblica, 800240024. Partiamo subito con Salvatore da Napoli, che è in linea già da un po', e dopo il traffico andiamo a Prato. Salvatore. Volevo fare solo una piccola precisazione sull'ultimo Gran Premio di Formula 1. Sì. Volevo dire che sia sabato che domenica hanno fatto vedere tutte quelle marche di auto che stanno al di sotto della Ferrari, mentre non si è visto nell'arrivo di Alonso, l'ultima prova, sì, e nell'arrivo di Alonso nell'arrivo di domenica, quando stava battagliando con Raikkonen, che cosa hanno fatto vedere dopo l'arrivo di Hamilton? Hanno fatto vedere l'esultanza dei box, e mi sembra un poco strano questo. Non so se la Rai abbia protestato verso il registro, verso la produzione. Guarda, questo non lo so. Sarà che Alonso è arrivato un quarto d'ora dopo gli altri, stappando. Sto esagerando, Salvatore, sto enfatizzando, però il distacco di Alonso dai primi era questo dà il senso della misura. Di quando la Ferrari oggi conti nella Formula 1 poco. Sì. Bene. Ma io non credo che conti poco. Io credo invece che sia un patrimonio anche economico, visto che stiamo parlando di soldi, che Bernie Eccleston o chi verrà dopo di lui si terrà ben stretto, perché la Ferrari rimane comunque il nome di punta, uno dei nomi di grande richiamo della Formula 1. A proposito di Formula 1, avrete letto oggi, no? Briatore blinda Alonso. Briatore, manager ufficiale, non è una cosa, un sotterfugio, è il manager di Alonso, come sapete, e l'ha blindato. Resta alla Ferrari, questa la voglio vedere. A me sa tanto di raiolata questa, però lo scopriremo vivendo. 800 24 00 24, strade, poi torniamo. Tutti convocati. 800 24 00 24, siete sempre convocati e a Cipica se avete diritto di parola, ma sempre. Andrea Prato, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Sono rimasto abbastanza scorcettato del commento sulla ripresa derivante dai soldi girati sul mercato dei calciatori, perché i soldi li hanno messi tutti gli arabi. Anzi, la lettura che io do è esattamente l'incontrario di quella che avete dato voi. Gli arabi vengono in Europa a divertirsi, per cui spacciare per ripresa qualcosa che è al di fuori di tutto il nostro tessuto economico mi sembra... Sì. Andrea, allora, Radio 24... Perdonami, punto primo era una forzatura, era una chiara forzatura, no? Era una chiara caricatura, se vuoi. Punto secondo, De Laurentiis ha beccato i soldi dagli arabi per Cavani e poi ne ha messi dei suoi, perché ha detto 64 e mezzo arrivano da Cavani, 60 ce li metto io perché ce li abbiamo... E comunque è un dato di fatto che il Napoli abbia speso comunque come le grandi europee, come le grandi d'Europa. Lasciamo stare questi 120 per Bale, che sono qualcosa di fuori dal mondo, dal tempo e anche dalla logica, anche pure calcistica, secondo me. Però De Laurentiis ha speso, Della Valle ha speso, insomma, questi soldi sono arrivati in parte dagli arabi, per la cronaca. Buona parte, alla fine c'è molto scambio di figurine se si va a vedere i numeri e incrociarli tutti. Comunque, ottima trasmissione. Grazie, ciao. Andrea, ciao, grazie, torna a trovarci. Siracusa, Giuseppe, andiamo in Sicilia. Salve, buongiorno. Buongiorno. Convocato per strada sotto il sole, insomma. Quanti gradi fanno da quelle parti? Diciamo vicino ai 38 in questo momento. Pica male. Mare di Siracusa, meraviglioso, consiglio un tuffo. Assolutamente confermo. Assolutamente. Ascolta, io, dimmi. Insomma, devo dire che sono abbastanza concorde con quello che hai detto fino ad ora, che tutto sommato il mercato si sta muovendo. Devo dire che in Italia ci sono squadre che hanno investito molto bene, dalla Juve, io sono juventino, quindi sono molto contento. Anche a proposito di soldi investiti, Giuseppe, perché l'ascoltatore di prima diceva ma arrivano tutti dagli arabi, ma quelli della Juventus non sono arrivati dagli arabi, perché di cessioni non ce ne sono state poi tante, mi pare, no? Quindi al capitolo ricavi la Juventus non ha incassato molto dagli arabi, però ha speso per Tevez. Fino a questo momento, diciamo, sta avendo una buona gestione degli introiti e anche delle spese, abbastanza buona a quanto pare. Però io faccio una considerazione: tanti ottimi giocatori, sono contento anche per gli acquisti del Napoli, della Fiorentina, veramente tutte squadre che quest'anno penso ci faranno divertire. Però pochi campioni, per come la vedo io. Tanti ottimi giocatori, per carità, da Gomez, voglio dire, gli attaccanti della Juve, lo stesso Higuain, ma non titolari inamovibili nelle proprie squadre. Un po' mi fa pensare. Ne abbiamo parlato, no, hai ragione a pensarci, perché l'abbiamo anche detto, insomma. Io credo che Mario Gomez nel Bayern di Guardiola avrebbe trovato pochissimo spazio. Higuain era sì tra i titolari dell'Inter di Mourinho, però mi sembrava comunque un giocatore in esubero, altrimenti il Real, che ora spende 120, non l'avrebbe ceduto. Per rispondere sempre all'ascoltatore di Prato, 800240024, poi continuiamo a discutere, mi fa giustamente notare Franco Piantanida che è vero che da una parte arrivano i soldi dagli arabi, però al Real Madrid sono arrivati anche i soldi di De Laurentiis per Higuain, Albiol, Callejon. A proposito di Albiol, strapagato secondo me lui sì che era una riserva vera del Real Madrid, come Callejon d'altra parte. Ebbene, il Real compra Bale anche con i soldi di De Laurentiis, che arriveranno dagli arabi in questo giro, però intanto 70 li ha messi in cassa l'Aurelio. Giulio Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo solo dire che io non mi scandalizzo per il fatto che i giocatori prendano tanti soldi, anzi, sono contento perché... E spero che almeno in qualche modo vengano seguiti e paghino le tasse. Ecco quello che volevo dire, che il vero problema italiano non è il prezzo dei giocatori, sono i costi dello Stato, che sono esosi, altissimi, e che spariscono. Questi almeno vanno un pochettino in giro, perché distribuendo questi soldi in qualche modo qualcosa ci faranno. Sì. L'importante è che ci pagano sopra le tasse, che siano seguiti, ben venga. Certo che ci paghino sopra le tasse, grosso modo sappiamo quanto beccano loro signori, no? A differenza di molti altri che comunque guadagnano in altri settori grandi quantità di soldi sui quali non sempre vengono pagate le tasse. Lei dice, va bene, contiamo questi soldi e aspettiamo sulla porta dell'erario che qualcosa entri, salvo evasione conclamata. Era successo anche a Messi. A proposito di Messi, oggi pagina 39 del Corriere della Sera, tra poco a beneficio di tutti i tifosi dell'Udinese e dintorni, ma a beneficio di tutta l'Italia del calcio. Ieri l'Udinese ha giocato non un amichevole, ma questa prima partita di Europa League, che è andata anche bene. Però pagina 39 del Corriere della Sera oggi, non so se quanto sia voluto, però a me ha fatto ridere. Sapete la storia di Messi con la pornostar, no? Pare che sia tutta una montatura, che sia un fotomontaggio. E vediamo, sopra questo servizio fotografico, fotomontaggio sexy fa infuriare Messi, il falso scoop della rivista argentina, e dimostrano come possa essere appunto un fotomontaggio di Messi con lo sguardo abbassato sulla scollatura di questa biondona. Ebbene, abbracciata questa biondona, sotto pubblicità una partita in onore di Papa Francesco, e lì invece c'è Messi che abbraccia Higuain per presentare quest'Italia Argentina del 14 di agosto. Insomma, a me ha fatto ridere, non so quanto sia voluto questa impaginazione. Dunque Udinese che ieri ha giocato contro i bosniaci del Siroki Brig, andata del terzo turno preliminare, 3-1 fuori casa, gol di Di Natale, doppietta di Muriel, quindi subito le grandi firme dell'Udinese in vetrina. Poi c'è stato anche il contorno della cronaca con tifosi udinesi al seguito che sono stati derubati e hanno trovato disavventure in Bosnia. Consiglio una bella gita a Lignano Sabbia d'Oro, che magari fanno il bagno e l'Udinese si può guardare in TV senza bisogno di andare il primo di agosto a farsi un viaggio di questo tipo. Ma comunque ognuno fa quello che vuole, ognuno ha i suoi gusti. Io non ci andrei, preferirei surf sulle onde. Allora sentiamo invece Guidolin. Primo tempo bene, abbiamo giocato con rispetto e serietà e abbiamo fatto bene. Nel secondo siamo calati da un punto di vista fisico, perché siamo appena un mese di preparazione e anche siamo calati un po' sul piano della concentrazione e abbiamo commesso qualche errore. Però alla vigilia temevo questo confronto. Devo dire che la squadra, almeno per il primo tempo, ha risposto bene. Già temeva Guidolin, già temeva il primo di agosto contro questi bosniaci dal nome abbastanza impronunciabile. Vabbè, pratica sbrigata, vi leggo questa. 800240024, poi vi aspetto. Divertente siparietto prima della finale dei 200 stile libero. Lucas, due punti. Fede, pensa che stai andando a sposarti. Federica Pellegrini, due punti. Va bene, Lucas, ma con chi? Non è mia, è di Genegnocchi, rompi pallone di oggi. sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Federica Pellegrini oggi ha conquistato la finale, la semifinale dei 200 dorso, ma Missy Franklin pare imbattibile, primo tempo per Missy Franklin, decimo per Federica, che comunque aspettiamo in finale anche in questa specialità che non è esattamente la sua. Cosa ha detto ieri? Stamattina ho sentito Philippe Lucas, chiesto di venire, era visibilmente soddisfatto. Sì, no, è stato molto contento. Hai visto da quanto tempo è stato al bar ieri sera? Bella questa, quasi come quella di Genegnocchi, quasi. Allora, ieri anche, non solo gioie ma anche dolori, quelli della pallanuoto, pessimo approccio alla semifinale con il Montenegro, siamo partiti malissimo, sempre a rincorrere, sotto subito l'Italia che ha approcciato male, secondo me, questa partita, forse, sottovalutare un avversario in una semifinale mondiale mi sembra troppa roba, però certamente l'approccio è stato sbagliato da parte degli azzurri che sono stati battuti dal Montenegro. Sandro Campagna. Allora al Montenegro noi non abbiamo giocato al nostro livello, soprattutto dietro, è evidente, 10 gol non li prendiamo probabilmente mai presi nella mia gestione, quindi dalla difesa bisogna partire, però anche davanti dobbiamo esprimere maggiore qualità nel tiro, maggiore qualità in certi movimenti, perché eravamo abbastanza prevedibili. Cioè, realismo, hanno giocato meglio gli avversari, lo sport è questo. Se gli avversari giocano meglio bisogna fargli i complimenti, però non ci dimentichiamo che c'è una medaglia di bronzo ancora in palio e quindi noi dovremmo far tesoro di questa sconfitta, riprendere le energie fisiche e mentali soprattutto e preparare la partita contro la Croazia, che ha sempre un sapore speciale. Bene, Croazia per la medaglia di bronzo, che schifo non ci fa, anche se il rimpianto ci rimane, non so a voi, a me sì. 800240024 Saverio, provincia di Como, poi andiamo con la borsa e poi torniamo, voglio tornare su Bale perché questa storia mi sembra incredibile. Saverio, buongiorno. Sì, buongiorno, intanto complimenti per lo spirito con cui affrontate lo sport, Radio. Grazie. 24. E la mia era una domanda, una considerazione sul Parma, su come si sta muovendo sul mercato e quali possono essere le ambizioni per questa squadra l'anno prossimo. Io penso che il Parma arriva da due stagioni già molto buone, ha mantenuto l'intelaiatura, ha aggiunto un Cassano che nell'anno del mondiale può essere determinante, altri due o tre tasselli tipo Felipe e Gisbato possono essere tornare utili alla causa, un allenatore bravissimo e penso il dirigente più bravo che c'è in Italia, Pietro Leonardi. Ecco, un suo parere su quali possono essere le ambizioni per il Parma l'anno prossimo. Ma io credo che, insomma, su Cassano io la mano sul fuoco non ce la metto mai. Credo che l'ambiente del Parma possa essere più congeniale alle sue caratteristiche di quanto non fossero ormai quelli del Milan e dell'Inter. Certo, può essere un grandissimo valore aggiunto, così come può essere, se non ha voglia, un giocatore ininfluente e rompipalle, perché lo sappiamo anche questo. Il Parma secondo me è così in ascesa rispetto all'ultimo campionato, è certamente migliorato e lei su questo ha ragione, poi è una squadra rodata, quindi non parte certamente con una squadra nuova, parte con degli aggiustamenti su un telaio che già funzionava bene, dunque secondo me vedo il Parma con la freccina all'insù. Tutti convocati. Dunque torniamo convocandovi di nuovo, 800240024, torniamo anche sul caso Bale, sul quale, perdonatemi, ma io non mi do pace, perché quei soldi non insomma il prezzo in questo caso non è giusto e nessuno riesce a togliermi dalla testa questa idea. Gareth Bale, ripeto, eccellente giocatore, però considerando i parametri di questo mercato, il doppio rispetto a Cavani, più o meno? Ma siamo sicuri? Jovetic 25, Bale 120, ma posso andare avanti, posso Higuain 40, che già sono tanti, Bale tre volte Higuain? Bah, non, questo no, io di questo non riesco a darmi pace, non riesco a farmi una ragione, però in fondo è estate, sentiamo la musica e balliamo, dai! This is a story about Billy Joe and Bobby Sue. Che? Buono che mi stacchi l'orecchia. Te stacco pure i quattro dita d'ogni mano, così dopo te ne vai a rubare poi i tuoi pollici, hai capito? Ma perché, coppa? Ieri sera ti sei fregato qua, forse di qua amico mio, quel milanese, che c'aveva 100 milioni dentro. 100 milioni? Tiri fuori. Ma te pare se c'avevo 100 milioni stavo rubando un portafogli qui a San Pietro ai pellegrini? Ma che dici? Ah, c'ha ragione, la voce. Ti ha detto 100 milioni? 100 milioni. Stavano dentro la borsa? 100 milioni dentro la borsa. 100 milioni veri? È veri sì. Quant'erano? 100 milioni, eh. 100 milioni! Ha capito, capuccio? Quant'erano? 100 milioni! 100 milioni! 100 milioni! Filippo Maria Ricci. Buongiorno. Buongiorno, 100 questo, milioni, eh? Questo l'hai visto no, anche tu, eh? 120 per fare un po' l'accento romano. Sì, fai l'accento, questo l'hai visto tutti, questo è un grande classico estivo, è anche laggiù in Spagna dove sei tutto sudato e lavori per noi, per la Gazzetta dello Sport. Senti, ma se dopo ti mando un SMS col mio IBAN, se a Real avanzano qualcosa, fammi arrivare, insomma. Vabbè, 120 sì, per Bale, chiaro, chiaro. Qualcosa può arrivare anche a noi, no? Eh? Ci muoviamo per questo. Ma dai, 120 per Gareth Bale. Ma dai, ah, no, ma c'era bisogno di fare gli spacconi in questo modo? Ma neanche 60 probabilmente. Ma neanche 60, ma insomma no, stiamo parametrando. Quanto costa Neymar? Quanto milioni per gli arramendi? Sì. A quel punto è un sana libera tutti. Por chi? Gli arramendi, è un giocatore della Real Sociedad, è un buon giocatore anche dell'Under 21 spagnola, che era a Madrid, ha appena pagato 38 milioni di euro. Allora ti mando l'IBAN subito. Gli arramendi si chiama? Sì, gli arramendi. No, bene. Magari, no, bene, magari no? Diventa anche uno buono, a parte fenomeno, che detto, magari infortunato per stress. Infortunato per stress, ragazzi, va bene. Comunque, no, ma stavamo facendo i conti della serva. Quanto costa Neymar? Non mi ricordo più quanto costa Neymar. 57, quindi più del doppio Gareth Bale. Ci sono molti dubbi, secondo me pare che l'abbiano pagato in più, però cifra ufficiale ripetuta dal Barça, 57 milioni. Sì, mi sembra che anche Ancelotti non abbia molto da dire laggiù, eh. Ha detto, ma con Bale io non ho ancora parlato, parlo solo con i miei giocatori, secondo me con la sua buona e proverbiale saggezza un po' contadina, che lo rende straordinario come allenatore, come personaggio, secondo me, un pochino si vergogna. Non lo so, ma è un uomo di mondo però ormai. Sì, è un uomo di mondo, ma certo. Milano, Londra, Madrid, Parigi. Le ha viste. Sì, poi anche lui non è che ne prende pochi, bravo, adesso. Anche la Ifi, Florentino, secondo me non si vergogna. Guarda il mondo alzando il sopracciglio e dice, vabbè, se va così, va così. Che cosa deve fare lui? Ma senti, ma sul campo Gareth Bale cambierà il Real Madrid? Perché da uno che costa 120 mi aspetto che faccia fare il salto di qualità a una squadra che comunque mettiamo, è forte. Lo mettiamo nella mattonella occupata da Cristiano Ronaldo, quindi sì. Devi spostare, non è che devi spostare gli Aramendi, devi spostare Cristiano Ronaldo, che negli ultimi anni lì a Real Madrid ha fatto sfracelli. E vabbè, lo sposti, lo puoi mettere o dall'altra parte o lo metti davanti a fare il centravanti col gattone che torna lì Sì, il gattone lasciamelo stare, che è uno dei miei preferiti, al secolo Karim Benzema. Il gattone rivitalizzato dalla cura Zidane Ancelotti. Comunque, spostiamo Zidane. Almeno Cristiano Ronaldo. E Bale, sì, il problema è che uno, si fa male, perché spesso si fa male. Due, il britannico che trionfa all'estero, mi sembra l'ultimo sia stato John Charles. Sì. Non lo so, poi vabbè, altri hanno fatto bene, se la sono cavata, però vabbè, mettiamo David Beckham, dai, mettiamo David Beckham. Mondo. No? Se ti pagano 120 milioni, non è che dici, ah vabbè, è andato benino. Certo. Cioè, devi essere come Cristiano Ronaldo, che è stato pagato 94 almeno. Per cui, non lo so, secondo me anche il povero ragazzo davvero rischia di stressarsi, anche perché arriva qua con delle pretese sul suo conto, perché poi a quel punto tu ti confronti con chi? Con Ronaldo e con Messi e con Neymar. Ma io non lo so se il povero gallese poi ce la può fare. Run baby run, potevamo mandare anche questa. Corri ragazzo, quello lo fa bene, quello lo fa bene Gareth Bale, che ripeto è un eccellente giocatore, però non mi sembra appartenga alla categoria dei giocatori che ti cambiano una squadra, che si contano sulle dita di una mano. Però no, sono anni, quelli, no? Non ha ancora vinto niente, certo, perché giocava al Tottenham, però appunto non è che sono arrivati prima a strapparlo dal Tottenham perché era il migliore del mondo, non lo so, cioè, è sicuramente un gran giocatore, un ottimo giocatore, un uomo fortissimo, però non lo so. No, per me, poi detto, secondo me neanche serve tanto. Cioè, il mio discorso per me è molto semplice: allora, devi spendere tanto? Bene, allora perché non si sono presi Falcao? Che già abitava qua, ha già conosciuto la Liga, avrebbe spaccato il mondo ed era teoricamente, vendendo Higuain, era il ruolo che ti rimaneva un po' scoperto. Certo, ma poi al di là del, non si sa quanti anni abbia, perché Falcao, come sappiamo, c'è stata meravigliosa querella, no? Comunque se ne ballano due, dai, io sono abituato all'Africa dove se non ne ballano 10 non ci siamo neanche al tavolo. Certo, lì va bene, i passaporti possiamo abbassarci l'età anche noi. Ti mando anche i miei dati anagrafici la prossima volta che passi per la Spagna, oltre al Libano. Io 25. Però no, a parte tutto, no, Falcao è uno che appunto poteva, era un acquisto che Real Madrid doveva contemplare molto più di Gareth Bale. Però qua ci sono due cose. Uno, parliamo di Cristiano Ronaldo. Ci sono due ipotesi, tre. Una, che rinnovi e va bene, tutto bene. Due, che decida di piantare i piedi e di andarsene via tra due anni gratis, che sarebbe una disfatta economica clamorosa. Tre, che addirittura decida di farsi vendere. In Inghilterra non si sa mai. Quindi in Inghilterra abbiamo tre squadre, che sono il Manchester United, il Chelsea e l'Arsenal, che ancora apparentemente non hanno fatto mercato. Hai visto mai che gli vengano i 5 minuti e tirino fuori la cifra impensabile per Ronaldo e così. Comunque in generale secondo me Florentino un po' si vuole cautelare, è una reazione a catena all'acquisto di Neymar, che voleva Florentino non l'ha avuto, allora dice vabbè, allora sai cosa c'è, mi compro quest'altro e lo pago 4 volte tanto. Sì. E poi si sta cautelando dalla eventuale catastrofica ipotesi che Cristiano Ronaldo vada via dal Real Madrid. Questo vediamo. È così. Allora diceva, chi c'è sulla piazza ha deciso di prendere questo gallese dagli occhi azzurri, dal tiro potente, e vedere se diventa un galattico oppure no. Se diventa un galattico oppure no, quei soldi deve diventarlo per forza. Grazie Filippo, a presto, ci sentiamo poi per quel Liban. Ci sentiamo poi per quel Liban. 800240024. Qua l'abbiamo evocata, Baby Run, corre ragazzo, perché devi correre tanto Gareth Bale per quei 120 milioni. Dario, ciao, da Udine. Buongiorno. Io faccio due domande rapidamente. Uno sul calcio scommesse. Noi laziali, perché sono laziale, abbiamo atteso con pazienza l'esito del calcio scommesse, perché vogliamo vederci chiaro, essendo il nostro capitano. Certo. Il discorso è che da una richiesta di 4 anni e mezzo, come se Mauri fosse stato, la cupola, cioè manteneva le file di tutto, Mauri è stato incriminato oppure penalizzato per omessa denuncia, cioè praticamente era una persona informata dei fatti per una partita. Ora, siccome ieri si parlava di omicidio sportivo e del fatto che Mauri era giusto, no? Il fatto che fosse stato messo in carcere, io le chiedo, alla luce di quello che è emerso oggi, ma ci rendiamo conto che una persona, uno sportivo, è andato in carcere? Cioè, una persona è andata in carcere per non aver fatto nulla? Perché se ci dobbiamo attenere a quello che è successo, Mauri non ha fatto nulla. Ci rendiamo conto che questa persona, chi gli darà più di 7 giorni in carcere? C'è una persona, a questo punto dobbiamo dire, come il procuratore, e per caccia alle streghe, per maniera di protagonismo, quando becca squadre un po' più blasonate, magari ci metto anche la Lazio, incomincia a fare il fenomeno e spara delle sentenze che poi vengono sbugiardate da chi è nel suo stesso campo. Sì. Però Dario, non mescoliamo le pere con le mele o le mele con le pere, perché un conto è il procedimento penale per cui c'è stata la custodia cautelare di Mauri, sappiamo che esistono dei presupposti ben precisi perché possa essere chiesta e ottenuta la custodia cautelare, uno dei quali è l'inquinamento delle prove, l'altro è il pericolo di fuga, eccetera, eccetera. Quindi questo lo sappiamo e questo riguarda il procedimento penale. Questo era il procedimento sportivo. Il procuratore non emette sentenze ma fa richieste. Palazzi aveva chiesto una condanna a morte sportiva per Mauri, 4 anni e mezzo, slealtà sportiva e frode sportiva, quindi consapevolezza di truccare una partita. È stato condannato a 6 mesi di squalifica sportiva, ripetiamo, per omessa denuncia, e contro questa sentenza sportiva verrà fatto ricorso, come è già stato annunciato dal suo legale. Dunque, così stanno le cose. Per fortuna viviamo ancora in un paese in cui vale ancora il principio secondo cui per condannare qualcuno devi avere delle prove. Evidentemente non c'erano tutte queste prove a carico del capitano della Lazio, cioè di Stefano Mauri. Tutti convocati. 800240024, vostro numero verde. Salvatore Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo intervenire a proposito di Bale. Sì. Diciamo, non so se vale 120 milioni, però io pensavo, che credo sia il giocatore più devastante del calcio moderno. Devastante. Non so, se c'è qualcuno più devastante di Bale, magari non è quello che fa più gol, magari non è quello più tecnico. Però a stargli dietro, secondo me, gli avversari fanno un po' di fatica. E io l'ho visto giocare, le volte che l'ho visto giocare ho questo aggettivo, è devastante. Ma non devastante anche 120 milioni, ma no, ma sì, che sia però... forte. Ma io non sto discutendo il valore assoluto di Gareth Bale, è un eccellente giocatore, non mi sembra ancora il giocatore che è in grado di cambiare una squadra. Certo ha reso il Tottenham più forte, ma non l'ha reso un'armata invincibile. Io credo che il primo nome che mi viene in mente, uno che è già lì, Cristiano Ronaldo, sia qualcosa di un po' più devastante di Gareth Bale. Messi credo che sia qualcosa di più di Gareth Bale. Ibrahimovic a modo suo molto condizionante, magari un po' in declino, non lo so. Però è comunque un giocatore che ha dimostrato di cambiare la pelle alle sue squadre, almeno sul fronte interno, su quello internazionale è un altro discorso, però sappiamo bene quale sia il curriculum di Ibra, no? Venivi di Vici, scudetto è mio, roba mia, lo vinco io, l'ha fatto per un'infinità di volte consecutive. Gareth Bale, su Gareth Bale mi tengo le mie riserve alla luce di questa quotazione, alla luce dei tanti guai fisici che spesso ha, alla luce anche di una quotazione che non può non essere pesante per un giocatore, non può non pesare sulle spalle del baby che deve correre. Run baby run, abbiamo sentito prima, e abbiamo anche le perplessità sul fatto che comunque Real Madrid, inserendo Gareth Bale, dovrà modificare assetto tattico a Cristiano Ronaldo piacendo. Andiamo dal coach. Well, now they gave him his orders in Monroe, Virginia. They said, Steve, you're way behind time. This is not 38, this is old 97. Put her in the Spencer on time. Ciao coach Dan Peterson. Ciao Carlo, amici sportivi, buongiorno a tutti. Come stai? Bene, come va questo agosto qui? Agosto fa caldo, caro coach. Senti, ma vorrei partire con te da un ricordo, perché le tue fotografie sono... Grazie, a proposito, per quelle che, lo dico pubblicamente, mi ha mandato via email sul disastro di Monroe, Virginia, che canti in questa canzone, sono meravigliose. E oggi vedo anche la fotografia di Jim McGregor, che è stato un grande allenatore della nostra storia. Americano come te, ha guidato la nazionale, poi Gorizia, Pesaro, Perugia, grande personaggio Jim McGregor, che ci ha lasciati ieri a 91 anni. Oh, guarda, stai parlando di un personaggio veramente più grande della vita, ok? Come ho detto nell'email che ho fatto a tutti voi, lui è fatto parte della seconda guerra mondiale con gli US Marines nel Pacifico, quindi se uno vede la sequenza di filmati del Pacific che è fatta da Tom Hanks e Steven Spielberg, capisce che uomo che doveva essere, ok? Poi ha fatto 1500 metri di atletica leggera all'Università del Southern California, quindi io, secondo me il motivo per cui ha fatto 91 anni è che sapeva condizionarsi fisicamente, lui era molto per fare nuoto, footing, altre cose, quindi un grande soggetto in questo senso qua. Poi se parliamo di basket, di personaggio, cioè lui veramente ha inventato tutto, ha allenato, udite, 9, ha detto 9 diverse squadre nazionali, la Grecia, l'Italia, la Turchia, Centrafrica, la Svezia, nominabile, cioè allenato Perù, Colombia, allenato 9 diverse squadre nazionali, 9, chi ha allenato 2 nazionali ha già fatto un'impresa, 9, c'è un record che non sarà neanche minimamente avvicinato. Poi in Italia il suo grande contributo qui, Carlo, è stato il primo agente, se vogliamo dire, anche casualmente lui faceva giri in Europa, in Italia soprattutto, con squadre delle stelle americane, quelle non dell'NBA, sì, ok? Sì, sì, sì. E un giorno evidentemente Giovanni Borghi di Cantù, il signor McGregor, le do $5,000 per un suo giocatore, Stan McKenzie, e McGregor ha scritto anche nel suo libro, dice: ho deciso che forse sono nella professione sbagliata, devo cambiare il mestiere, è diventato il primissimo agente e le sue squadre, Gillette prima e poi Gulf Oil dopo, che ne ha fatto uscire alle tornei estivi in Italia, hanno reso il campionato italiano il più forte campionato d'Europa. Su questo non ho nessun dubbio, cioè quando tu vedi Varese con Bob Morris e altri giocatori, Milano con Art Kenny, altri giocatori, sono tutti, tutto questo è nato dal fatto che Jim McGregor ha fatto l'Italia diventare numero uno come destinazione per i più forti giocatori stranieri, soprattutto americani. Quindi, e poi potrei andare avanti del personaggio che è stato più... Ma com'era allenare contro di lui, coach? Perché mi ricordo quella volta ci ha raccontato di Dido Guerrieri e delle sue barzellette, ma allenare contro Jim McGregor com'era? Well, innanzitutto l'ho fatto 6 partite, ok? Io vengo sempre io la squadra più forte, però era un incubo, nel senso che lui pressava tutta la partita e correva tutta la partita, cioè se tu segnavi un canestro loro facevano passaggio baseball a 3 quarti campo, cioè in un milionesimo di secondo, cioè o rientravi in difesa o beccavi 115 punti in faccia, cioè lui era così, cioè aveva una sua filosofia e andava con questo. E tutti i suoi giocatori, lui mi ha chiesto una volta di un giocatore: secondo te Dan, lui è bravo a intercettare passaggi? L'unica volta che nella mia vita che un allenatore mi ha chiesto questo parere sul giocatore, bravo a intercettare passaggi, cioè altro chiede salte, corre, è veloce, rapido, qui i riflessi, lui specificamente è andato su questo. Quindi lui sentiva, come diciamo noi in americano, altri tamburi, ok? Lui aveva un'altra mentalità sul basket, anni luce davanti a tutti. Lui era in tante cose davanti a tutti. Coach, invece, parlando di quello che vedremo a settembre, tegola sulla nazionale, Daniel Hackett, dopo Gallinari, rinuncia al campionato europeo. Stamattina per caso ho incontrato Attilio Caia, mio amico, che ha lavorato a lungo quest'estate con varie nazionali under 20 eccetera, ha fatto molti tornei, mi ha confermato che c'è fuoco sotto la... non è cenere per il basket italiano, ma c'è fuoco, ci sono giocatori, ci sono prospetti interessanti. Certo che adesso si tratta di fare l'europeo, andiamo con una squadra, Travis Diner sta, mi ha confermato ancora Attilio Caia, che è stato a vedere il lavoro della nazionale, sta giocando da Dio e non è il giocatore che abbiamo visto a Sassari, poca difesa, molti canestri, è un giocatore totalmente diverso, ma con la testa che ha Diner non faccio fatica a crederlo. Insomma, andiamo verso l'europeo con grande fiducia, ma senza Daniel Hackett. Dov'è il coach? Oh mio Dio. Va bene, vediamo se riusciamo a recuperare una battuta di Coach Dan Peterson su questa notizia pessima per noi di Daniel Hackett, MVP degli ultimi playoff protagonista dell'ultimo scudetto con Siena. Ebbene, non ci sarà per l'europeo. Marco da Roma invece è in linea. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo commentare la situazione del calcio scommesse, Mauri, Genoa, Milanetto, no? La cosa che mi lascia un po' perplesso, come tante cose succedono nel calcio, è che il procuratore aveva dato comunque sì all'inizio una proposta di 4 anni e mezzo a Mauri, un meno 6 alla Lazio e qualcosa del genere al Genoa, giusto, no? Sì. E per una eventuale combine, quel famoso 4-2. Ora, io leggendo che il Genoa è praticamente tolto da ogni responsabilità, la Lazio 40.000 di multa. E le notizie prima di tutto e prima di tutti su Radio 24. Marco è ancora lì? Stava sì, ecco. Notizie prima di tutto, prima di un'altra cosa, certo. Lei lo sa. No, allora, posso? Sì, certo. Allora, no, stavo dicendo, appunto, io ho dato le proposte fatte dal procuratore Palazzi e sì, poi adesso invece in realtà, insomma, il Genoa sembra, tra virgolette, innocente, la Lazio 40.000 di multa, Mauri 6 mesi e Milanetto nulla. I 6 mesi dati per omessa denuncia, secondo me, significa per omessa denuncia, vuol dire che non hai detto un qualcosa che c'era, ma se tutti sono innocenti, la partita... è falsato o no? Ma dov'è l'errore? Giustamente, ha ragione. Ma sta partita era azzottata oppure no? E questo... E soprattutto, i colpevoli dove sono? Perché era truccata, ma da chi? Questo non è chiarissimo. Genoa, niente. Milanetto, niente. Mauri, niente. Praticamente niente. 4 anni e mezzo chiesti da Palazzi. Un buffetto, perché ho messo denuncia 6 mesi, che tra l'altro, a mio parere... sono destinati ad evaporare dopo il ricorso. E allora sta partita valeva oppure no? Ci avete preso in giro oppure no? La verità è che non probabilmente, per come la leggo io, non esistono le prove, e le prove sono tutto, insomma, quando parliamo di gritto anche sportivo. Bene ragazzi, adesso vi saluto e lunedì vi lascio per un paio di settimane in compagnia di Giovanni Capuano, così siete contenti tutti, o molti saranno contenti naturalmente. Poi torno il lunedì 19 per vostra sfortuna. Ringrazio Franco Piantarini, autore di questo programma, Filippo Oreggi in regia, e oggi voglio fare un ringraziamento particolare anche a Francesco Beccio, Mattia Palano e Silvia Lorenzini, che hanno lavorato molto su questi ultimi programmi. Grazie a tutti, ciao!